amore mio, non merito quel volo che hai dentro tu. Tu sei nella mia storia e lì ci starai, da qui all'eterno. Fammi del male tu, se può servirti fallo, perché tu puoi. Ma aspetto il bello o il brutto, perché a te ho preso tutto. La natura che hai, come muovi i tuoi occhi, quando prima mi parli, quando dopo mi ascolti, quando ridi di niente, quando leggi o ti spogli, quando apri la porta e mi porti la vita, il calore che emani, la tua pelle è una culla. Sono io che dovrei rispettare il tuo esempio, sono io fatto male, sono io cerebrale. Vado oltre ogni cosa, vado oltre il segnale, sono meglio da perso. Amore mio, ma come ho fatto a restare in silenzio di fronte a te? Non ti ho mai detto le cose che ho dentro, perdonami, capiscimi. Amore mio, non è il coraggio che costruisce la libertà, non è l'odore che passa dal naso, la libertà, la libertà. Gridami amore mio, saprò sentire l'urlo dovunque andrò. L'amore è l'invenzione che ha dato all'uomo dolore e forza. Della forza ricorderò il giorno che mi ha fatto incontrare te. Invece del dolore resterà questo no per sempre. Posso vivere solo, posso vivere bene, ci sarà nuova vita, ci saranno l'estate, torneranno i colori, quelli che fai fatica a vedere d'inverno, benedetti i colori che l'amore scompone. Amore mio, ma come ho fatto a restare in silenzio di fronte a te? Non ti ho mai detto le cose che ho dentro, perdonami, capiscimi. Amore mio, non è il coraggio che costruisce la libertà, non è l'odore che senti dal naso, la libertà, la libertà. Amore mio, amore mio.